Cari amiche, cari amici, Radio Alma, brussellando Maridì ai microfoni. Siamo nuovamente qui questa sera per trascorrere una piacevole ora insieme con un ospite di assoluto, diciamo, riguardo. Ci siamo particolarmente affezionati perché abbiamo avuto già modo di intervistarla qualche tempo fa, in luglio, ed è con piacere che ritorneremo a parlare della scrittura di Letizia Lanza questa sera. Prima di procedere quindi con l'abituale intervista, penso che abbiate notato che abbiamo un po' apportato una modifica alla scaletta di Brussellando. Ci siamo detti forse è meglio se riusciamo a raccontare un po' qualcosa dell'agenda prima di fiondarci direttamente sull'intervista. Anche perché dopo sono più interessanti le interviste. Insomma, quindi sai, all'agenda ci aiuta un po' a carburare. Però volevo fare una domanda a Giorgio prima di passare alla, visto che stasera sei in the good mood. Sono in the good mood. Oh no, non lo so, io ho un verme nella testa questa sera, c'è qualcosa che mi rode il cervello ed è questo: se i bambini italiani cominciano a lallare quando sono piccoli, i bambini giapponesi cosa fanno? Cominciano a rarrare? Potrebbe essere. Giorgio, scusa, ma queste idee ti vengono la notte? È una questione, sai, di... Non mi è venuto. È una questione veramente di percezione. Potrebbe essere. Non avendo loro la L, i bambini fanno RR subito. Ma il fatto è che i bambini lallano perché non riescono a fare la R, perché pur essendo la L una liquida, anche la R è una liquida, ma è una liquida rotante, quindi prima si fa la L e poi si fa la R. Esatto. E infatti tutti i bambini piccoli hanno la R muscia quando parlano. Esatto, si chiama lallare. George, ti posso fare una domanda? Dica. Ma il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa. Tutti vorrebbero saperlo, però non c'è nessuno che lo sa. Allora, quindi la mia domanda per George era, ma una volta si diceva, hai voluto la bicicletta e pedala, no? Adesso sì, hai avuto il motorino. No. I tempi, data la crisi, ci direbbero, sto pedalando, quando arriva la bicicletta? Esattamente, bella. E questa è la domanda, no. Era questa la domanda. No, sai, che ne pensi? Tu che sei un linguista ormai... E anche un ciclista. Raffinato, nonché ciclista... professionista. Assolutamente vero, sto pedalando, quando mi date la bicicletta? Questo è assolutamente vero. Adesso non vorrei entrare, mi sono fatto circa 4 ore di radio nel weekend ad ascoltare varie trasmissioni, vari interventi e commenti sull'evento FIOM in Italia, quindi andrebbe proprio... Ed ecco, questa frase che hai detto, sto pedalando, quando andate in bicicletta, potrebbe essere stata pronunciata in quell'occasione, per esempio. Non lo so, insomma, era una curiosità che mi veniva, e quindi quando l'ho letta ho pensato a te. Questo mi piace. George, che voglio avere anche il punto di vista di George. Veniamo agli eventi. Allora, noi domani sera eccezionalmente... avremo il piacere di avere in radio, scusate, stai piangendo o ti è andato di traverso? Un brutto pensiero. No, sta pedalando. Praticamente domani sera in radio avremo una puntata speciale di Brussellando, di mercoledì, ragazzi, incredibile. Di mercoledì. Mercoledì di Coppa. Avremo come ospite, quindi dai nostri microfoni, il bloghista del sito Spinosa, un sito che è molto popolare attualmente in Italia, e lo stesso evento sarà, diciamo, anche presso la libreria Piola dalle ore 18 e 30, e modererà il giornalista Alvise Ermellini. Quindi insomma, noi auguriamo a tutti ovviamente un grosso in bocca al lupo, e anche a noi che saremo qui in radio, insomma, e siamo veramente onorati di poter di aver avuto la possibilità di avere in studio, insomma, l'autore di questo blog. Invece un altro evento che mi fa piacere ricordare è, forse perché amo il vino e quindi insomma l'evento mi sembra proprio particolare, Mega Vino, che è una fiera del vino, in cui praticamente sarà possibile degustare tantissimi vini, non solo italiani, ma anche portoghesi, francesi, tedeschi, californiani. L'evento parte venerdì, quindi il 22 ottobre, dalle ore 18 e fino alle 23, e poi va, insomma, prosegue sia per il sabato, la domenica e il lunedì fino alle 18. Sabato e domenica aperto. Il sabato dalle 12 alle 20 e la domenica dalle 10 alle 19. Tutto questo, come al solito, presso il Parco delle Esposizioni dell'Esella, al Palazzo numero 3 a 1020, quindi a Laeken, Bruxelles. E per quanti volessero saperne di più, potete scrivere a megavino@vinopress con una sola s.com. E qui invece abbiamo Britannicus, molto bello. Ovviamente nella categoria di spettacoli e teatri. E beh, certo, si sa che l'imperatore Nerone, ho fatto una crasi. Hai fatto un clipping, come direbbero i linguisti inglesi. Una crasi, in italiano si chiama crasi. In inglese si chiama clipping, ci siamo trovati. L'imperone. Vuole regnare da solo, emanciparsi dall'influenza della sua madre Agrippina, che l'ha messo sul trono a detrimento di Britannico, a spese di Britannico, che era il legittimo pretendente. Beh, insomma, in questa scena, in questa pièce teatrale, i personaggi si immergono in una violenza incredibile, le morti si susseguono così come i tradimenti. E Racine ci mostra in modo, qui in questo pezzo di teatro, in modo magistrale, che è ovviamente dall'umano che sorge l'inumano. E quindi questa è una cosa che secondo me vale la pena vedere, interessante. Dunque, questo spettacolo lo potete vedere, oggi siamo un po' sottotono, lo sentite, cioè, proprio l'energia sottotono. Ma cosa ti hanno fatto, Giorgio? Io non lo so. Magari poi dedicheremo una puntata al giro di boa, possiamo chiedere al nostro direttore di lanciare magari un'indagine, così Giorgio magari troverà sollievo. Troverò sollievo. No, allora, dicevo, questa compagnia, la compagnia Bella di Notte, in coproduzione con la Teatrale 210, la potete trovare in azione al teatro. E non riesco a trovare il teatro. Gira la pagina. Ho girato la pagina, capovolta. Ma non c'è. No, allora, signore, ho girato la pagina, ma non c'è, quindi. Ci arrivo. Allora, fate una ricerca su Google e trovatelo. Sì, in casi di estremi, insomma, di estrema necessità. Visitate il nostro blog. Ma incredibile. Ne saprete di più sul nostro blog. Sì, no, vabbè, c'è Sandy Chorslini, Mira Youssef, eccetera. Beh, in realtà credo che non ci sia, sai. Infatti magari si chiama comunque davvero Atelier 210. Credo sia Atelier 210. Scusate, chiede bene la mia ignoranza sugli atelier belgi e soprattutto brussellesi, è insondabile perché è così vasta che, insomma, non vale la pena neanche provarci, sono proprio ignorante. Quindi l'Atelier 210, l'indirizzo internet è www.atelier210.be e comincia il 12, anzi è cominciata il 12 ottobre fino al 30 ottobre, fino a fine mese, alle 20:30 all'Atelier 210. Invece, per quanti amano l'America, per quanti hanno avuto la possibilità di visitare questo paese comunque immenso, per quanti sognano ancora di poterlo visitare, ebbene, a Tour et Taxi, Avenue du Port 86 a Bruxelles, dallo scorso 15 ottobre fino al prossimo 9 maggio, sarà possibile poter ammirare l'America europea, l'America americana e l'Europa americana. Una mostra che mette in evidenza quello che è poi il solco comune delle civiltà che dividiamo tra le due coste dell'Atlantico. Il tempo di visita necessario è tra 1:30 e 2 ore. Vi è la possibilità di organizzare delle visite private, notturna oppure diurna, e ci sono formule poi diverse, quindi possibilità di catering, decorazione, insomma tante cose sono possibili. Se volete visitare quindi questa mostra, dal lunedì al venerdì è possibile dalle 9 alle 17, il mercoledì su prenotazione fino alle 21, e sabato, domenica e giorni festivi dalle 10 alle 19, durante le vacanze scolastiche ugualmente dalle 10 alle 19. Il sito internet è expo-europa-usa.com BA e qui potrete poi ottenere tutte le informazioni necessarie. Vedo già Dani M quindi in, al telefono con il nostro ospite, però credo abbiamo ancora lo spazio per due eventi. Vedo Imola pronta. Esattamente, sono pronta con il Marte, se vogliamo fare un bel viaggio nello spazio, anche se non personalmente ma con l'aiuto delle, delle tante conoscenze che si sono accumulate e che sono, saranno messe in mostra nel Museo delle Scienze Naturali di, del Belgio, vale proprio la pena di farlo. Perché magari per tutti noi, per tanti di noi, l'ultimo ricordo sul pianeta rossa è che è rossa, che forse c'era qualcosa di sospetto di vita e che magari ci sono gli ometti verdi che ci stanno osservando di là. Se volete sapere qualcosa un po' più preciso, con tutte le scoperte affascinanti degli ultimi tempi, vi raccomando di visitare questa esposizione al Museo delle Scienze Naturali, quindi a Rue Vautier 29, che comincia adesso e dura fino al 20 marzo. Il précisément 20h19. Tu non hai ancora un'altra? Come no? Chicca. Certo, però c'era il segnale orale che arrivava prima di me. 20 e un quarto, no, 20 e 20. Era 20:19. Sì, ho Maurice Béjart, l'arte con il libro Percorsi liberi, decori e costumi, alla categoria delle esposizioni arte, nella prima mondiale, perché questa esposizione che è presentata in prima mondiale, uno spazio di più di 1000 metri a Ixelles, mostra delle opere storiche e prestigiose dei grandi creatori internazionali che hanno collaborato con Maurice Béjart. Però. Sì, fra gli altri Salvatore Dalì, René Magritte o Yoko Tadanori. Ah, pensavo Yoko poco, ma Yoko. Però. No, è Yoko Tadanori, i decoratori Jean Rostand, Roger Bernat, Henri Bosquet, Gianni Versace anche, perché no, Paul Knott e anche il coreografo Germinal Alcasado. Insomma, qui ci troverete macchette, schizzi, piani dispositivi scenici, costumi, sculture, fotografie, insomma un po' di tutto, e sarà sicuramente l'avvenimento dell'autunno 2010 a Bruxelles, un'esposizione vivente, un'esposizione che darà numerosissime testimonianze anche attraverso dei video. E quindi, allora, dove? Dove recarsi? Beh, alla Maison Béjart, e l'indirizzo è Pavillon Rodin, Auguste Rodin 8 a Ixelles. È l'autunno, quindi è dall'8 ottobre, già cominciato, fino al 22 novembre. Letizia. Sì. Ah, buonasera, ben trovata, benvenuta a Bruxellando, è sempre un piacere per noi averti nostra ospite. Penso che in coda hai potuto ascoltare un po' di suggerimenti della nostra agenda di Bruxellando. Allora, avevo ricordato già a inizio puntata che tu eri stata già nostra ospite. Qualche mese fa, a luglio. Sì, con piacere da parte mia. Ed eravamo felicissimi quindi poi di poter riparlare di questa tua ultima pubblicazione, La verità e il mito Trittico Muliebre. Però prima di affrontare insomma gli argomenti che tratti in questo tuo scritto, vorrei che fossi tu a raccontarci brevemente del tuo percorso insomma accademico, insomma, o comunque legato alla scrittura in generale. Così insomma ti presenti nuovamente ai nostri alle nostre amiche e amici ascoltatori. Sì, volentieri. Io mi occupo, sono un'antichista laureata in lettere classiche, specializzata in filologia classica, e da molti anni ormai mi occupo di produzione di saggi, di ricerca, quindi svolgo ricerca su testi di letteratura sia antica sia moderna, e soprattutto se legati o a figure femminili di protagoniste o a figure femminili di autrici, cioè di scrittrici. E mi sembra un discorso importante da parte, in particolare da parte di una donna, ma anche in generale, questo recupero di una fisionomia femminile nell'ambito della letteratura, ovviamente anche dal punto di vista delle figure mitiche, delle eroine del mito antico, magari rivisitate da nella produzione moderna. Infatti la volta scorsa avevamo appunto presentato ai nostri ascoltatori femminilità virile tra mito e storia, insomma avevamo un po' riportato alla luce, soprattutto mi ricordo in particolare le Amazzoni su cui avevamo tanto parlato la volta precedente. Ora mi incuriosisce molto, insomma la storia ci insegni quanta verità non sia altro che insomma un'invenzione poi postuma. Come mai hai deciso di accostare la verità al mito? In che senso si spiega questo binomio tra verità e mito? Sì, allora intanto c'è questa valenza ossimorica del titolo, no? Questo contrasto. Io spesso ricorro a contrasti nel titolare le mie opere, le mie scritture. E anche il precedente, cioè il terz'ultimo nella produzione più recente, aveva appunto questa caratteristica, era mirabile bruttezza. Sono due concetti, la verità e il mito, che per noi, alla luce ormai delle nostre conoscenze, della nostra formazione, diciamo così, in qualche modo è un contrasto che è assoluto in certe realtà, tutt'altro invece che è netto in altre realtà. Ho capito. Allora passiamo quindi invece al contenuto, perché tu insomma fai una carrellata poi di personaggi, insomma di figure femminili che partono dalle sacre scritture e giungono poi insomma alla classicità ellenico-romana, e inizi in maniera secondo me veramente pertinente nel nome di Eva, e dove sottolinei chiaramente come in realtà questo creatore, che poi sia reale, immaginario, insomma poco importa, come punisce poi Eva per quel famoso peccato, se così lo vogliamo chiamare, del frutto proibito. E continui poi raccontando insomma tutta una serie di vorrei un attimo inquadrare quello che è lo scopo fondamentale di questo libro, che a mio avviso è molto ben evidenziato nella premessa di Tiziana Agostini, che si intitola Prendersi la libertà, non per caso. Tiziana Agostini è una studiosa, è una critica letteraria, che anche ha fatto parte della SIL, Società Italiana delle Letterate, insieme a me, e che adesso è assessora delle attività culturali e della cittadinanza delle donne del Comune di Venezia. In che senso dico coglie bene la cifra del libro? Perché appunto il segnale forte che io desidero lanciare è mettere in evidenza la possibilità che, pur tra infinite difficoltà, infiniti condizionamenti, passi in avanti, in ambienti molto diversi, e la possibilità di uscire in qualche modo dai ruoli imposti loro, di percorrere delle scelte tra molte virgolette comunque libere, di riconoscere anche in qualche modo, in qualche misura, di garantirsi il diritto a una ricchezza, una molteplicità di manifestazioni di vita, cioè insomma, in altre parole, la capacità di, per dirla con una formula che a me sembra molto, molto efficace, nascere a se stesse. E questo è successo, certo non con una, probabilmente una volontà precisa, una chiarezza di coscienza definita, cioè molto prima, cioè della possibilità, della consapevolezza che si sa soprattutto. E nel quadro della mia ricerca femminile mancava completamente la presenza biblica. A questo punto sono voluta partire da lì, quindi da un contesto religioso, e poi arrivare a un'altra realtà, diciamo anche qui tra molte virgolette religiosa, cioè il secondo contributo si occupa delle streghe, della sì, esatto, della persecuzione inquisitoria. Allora, la religione in una prima battuta, la religione con le deviazioni della religione in seconda battuta, il terzo contributo si rifà invece direttamente al mito, che comunque è sempre una forma di religione. tutto, perché effettivamente avuti, come insomma appunto tu dicevi, passi da un contesto religioso ad uno poi effettivamente mitico. Quanto tempo è stato necessario per le note che tu scrivi, quindi insomma alla fine di ciascun capitolo sono infinite, sono tantissime. Quanto tempo ti ha richiesto, insomma, mettere insieme tutte queste note, commenti, insomma, immagino che ci sia tanto lavoro di archivio anche. Sì, c'è molto lavoro di ricerca, molto lavoro di archivio e anche effettivamente molto tempo, perché io ho cominciato a far nascere nella mia mente questo libro, direi più di un anno fa, un paio d'anni fa, poi ci sono stati altri lavori a cui ho dato la precedenza, quindi è stato lasciato, abbandonato, ripreso, e è stato faticoso obiettivamente, ma anche volevo segnalare ai nostri ascoltatori che uno dei pregi della scrittura di Letizia è che nel momento in cui ci presenta poi diversi personaggi, in questo caso femminili, è soprattutto un'apertura di pensiero, cioè quando leggerete il testo ritroverete comunque elencate, voglio dire, Eva, così come si parla delle donne di Salomone, così come si fanno poi altri esempi, e mi piace questa tua capacità, Letizia, di non, in realtà, di condurre il lettore attraverso la storia, attraverso poi i secoli, ma senza arrivare poi ad una, senza voler in un certo senso influenzare la lettura stessa del lettore, perché resta comunque una lettura abbastanza neutra, indipendente, però si sente insomma la tua mano solcare insomma sul tempo, nel tempo, e guidare poi insomma nei diversi passaggi. E prima di passare al capitolo successivo, che è quello che insomma mi ha divertito di più, quello sulla segheria, delle donne piuttosto che delle altre, cosa insomma ti ha guidato nella scelta, nella selezione? Sì, beh, il primo contributo mette in evidenza una carrellata di figure, diciamo, positive femminili, almeno nella prospettiva appunto biblica e dei profeti, e di figure negative femminili, sempre dal punto di vista della società che nella quale esse si trovavano a vivere. E, poi ho dato maggiore spazio a certe figure che ho trovato più affascinanti, per esempio Giuditta è molto presente nel mito, e non so, il fatto di dare maggiore spicco a certe figure piuttosto che ad altre può essere anche legato in qualche modo a una mia preferenza o comunque ha un valore che vedo maggiormente rappresentato da alcune piuttosto che da altre. Tu prima hai detto che io cerco di non sovrappormi, dire in maniera così autoritaria quello che è il mio pensiero. Io lo esprimo chiaramente, credo, ma appunto è voluto questo fatto di non condizionare. Chi ti legge, sente che c'è volutamente in realtà questa indipendenza delle protagoniste in questo caso, e soprattutto la libertà proprio delle immagini stesse evocate. Veramente è straordinario. Ma è voluta, è una cosa che io faccio proprio appositamente, perché mi piace creare questo circolo virtuoso tra voci lontane che però in qualche modo si rispondono, no? Che in qualche modo fanno un eco le une con le altre. Tra l'altro, non a caso prima ti chiedevo appunto magari di raccontarci un po' di più di questa tua scelta, proprio perché questo cammino tu prima definivi anche consapevolezza anche nelle donne stesse, nelle donne protagoniste, perché immagino comunque che le donne di Salomone non siano poi le streghe medievali, così come ancora non siano insomma i personaggi femminili di età tardoellenica. Voglio dire, magari sì. Ci sono ci sono degli aneliti che possono, sì, accomunarle. Esatto. Sì, ci appunto sono... questo desiderio di essere se stesse, di uscire in qualche modo dagli schemi, di esprimere una femminilità che è forte comunque, al di là di quella che poi può essere una consapevolezza storica, diciamo, esatto, esatto, ad altre vicende, ad altre realtà, quella che in realtà c'è nel Novecento, insomma. Passiamo ora invece alle streghe. Partiamo dalla definizione, così come a suo tempo abbiamo fatto con gli amazzoni. Chiariamo finalmente, insomma, eliminiamo tutti i dubbi e partiamo dalla definizione proprio etimologica del termine strega. Chiariamo un attimo che cosa sono, che cos'è. Sì, allora la strega, il nome strega viene appunto dal latino striga e a sua volta il latino striga è originato da strix. Strix, che significa strige, che è sia un personaggio mitico sia anche un uccello. E queste figure, le strigi, compaiono dal punto di vista lessicale in parecchie lingue e nell'ambito della mitologia classica sono originariamente appunto degli uccelli, poi probabilmente metamorfizzati in donne crudelissime che rapiscono i neonati nella tomba, nella culla, scusate, e sostituiscono, assorbono il sangue, bevono il sangue del neonato, quindi lo lasciano praticamente un involucro vuoto e senza vita. E come sarebbero le strigi? Ho capito, ma secondo te, insomma, raccontiamo anche ai nostri ascoltatori, come si è affermato questo concetto di stregheria? Come mai c'è stata questa necessità, insomma, l'uomo ha dovuto ricorrere a questa categoria così, insomma. Come mai hanno chiamato streghe le streghe? Brava, esattamente, come una cosa. Sì. Evidentemente perché queste donne sono apparse o comunque hanno dimostrato delle capacità extra ordine, vogliamo dire, cioè straordinarie, al di là di quelle che erano i limiti consentiti e che non spaventavano, e dunque l'immaginazione, l'immaginario popolare ha caricato su quelle che sono le nostre streghe i terrori già suscitati nell'antico da quelle figure orrende, appunto, di cui parlavamo, cui ho accennato prima. Quindi in realtà c'era quel fenomeno che poi si sta riverificando oggi, quindi insomma quanti ci vogliono poi propinare delle cose, se solo sapessero guardare al passato troverebbero già delle risposte, sebbene insomma tremende come queste, quindi che regna comunque nel tempo la paura del diverso. Esattamente, la paura del diverso, della diversa, ancora forse di più che del diverso, perché è doppiamente pericolosa. Una donna diversa è un nemico ancora più inquietante, una figura di instabilità molto forte, penso, per una società, per delle società sostanzialmente maschiliste, sostanzialmente androcratiche e androcentriche. La donna extravagante, la donna che non si riesce a controllare, da un lato esercita un fascino evidentemente straordinario e dall'altro però suscita un'inquietudine e una paura ancora più forte, ancora più straordinaria. Se infatti la donna è considerata più debole dell'uomo e dunque più esposta, Sì, e dunque stavo leggendo, e dunque più esposta al rischio di suggestioni demoniache. Basti già ricordato lo strafamoso episodio del peccato originale, nello specifico della stregheria. Non lascerai vivere con lei che pratica la magia, impone lapidario Esodo. Ciò nonostante, la maggior parte dei luoghi biblici fulmini di identica condanna, tanto maschi che femmine. Così ad esempio prescrive il Levitico: non praticherete alcuna sorta di divinazione o di magia. Non vi rivolgete ai negromanti né agli indovini, non li consultate per non rendervi impuri per mezzo loro. Io sono il Signore, vostro Dio. E se un uomo si rivolge ai negromanti e agli indovini per darsi le superstizioni dietro loro, io volgerò il mio volto contro quella persona e la eliminerò dal suo popolo. Se uomo o donna in mezzo a voi eserciteranno la negromanzia o la divinazione, dovranno essere messi a morte. Saranno lapidati e il loro sangue ricadrà su di loro. Letizia, immagino tu insomma abbia capito, abbiamo voluto condividere anche insomma un paio di paragrafi insomma della tua scrittura anche ai nostri ascoltatori. Insomma, questo passaggio ci era piaciuto in particolare, sì. Perché insomma dimostrava chiaramente quante cose. E anche una domanda avevo, in realtà qui si parla proprio di, si comincia quindi anche a livello religioso, si comincia con la contrarietà alla magia, come se la magia fosse altra religione o comunque in concorrenza, almeno al tempo, con la religione, con gli dei pagani. Però qui si parlava di magia a sé stante, quindi rivolta verso uomini e donne. Quando c'è il passaggio, quando si trasforma questo in attacco contro le sole donne? Perché poi, in effetti... Sì, no, perché la domanda che è legata a questa, cioè una seconda domanda, è che noi abbiamo purtroppo, siamo rimasti ancora legati al fatto che ci sono le streghe e i maghi, e poi gli stregoni. Ma c'è una nuance, c'è una caduta di considerazione, cioè partiamo dai maghi che generalmente sono benigni, generalmente. Poi passano gli stregoni che però hanno degli effetti curativi ma possono anche fare del male, fino alle streghe che fanno esclusivamente del male. Ecco, mi piacerebbe capire come c'è stato questo movimento e perché, da dove nasce anche poi la gradazione fra mago, stregone e strega. Sì, beh, è un discorso complesso perché affonda appunto le sue origini nell'antichità. Ci sono forme di magia, la magia in senso lato è praticata da tutte le religioni più antiche e non è considerata negativa, perché appunto riti magici sono anche comprensivi, per esempio, di conoscenze particolari. Noi pensiamo ai magi caldei, che sono maghi, insomma, per cui hanno delle sono uomini maghi e hanno, certo, delle competenze straordinarie dal punto di vista astronomico, per esempio, o matematico. Quindi il discorso sulla magia è complessissimo perché è una disciplina, è una manifestazione di un'infinità di saperi diversi l'uno dall'altro, ma anche a volte molto simili, e quindi bisogna distinguere. Ci sono tutte queste classificazioni tra le varie tipologie di maghi, di non maghi, le streghe. Il discorso sulla strega, secondo me, è naturalmente strettamente legato alla religione cristiana, cioè viene demonizzata la donna, in particolare più dell'uomo, ma comunque anche gli stregoni, anche chiunque di qualunque genere esso sia esercita questo tipo di pratiche magiche, viene colpevolizzato. In realtà la figura femminile viene particolarmente demonizzata proprio per quello che è stato letto un momento fa, in quanto più è facile preda del demonio, in quanto più debole e anche con delle caratteristiche irrazionalità, di inconsistenza, a volte addirittura dal punto di vista psichico. Quindi la donna, essendo considerata più debole, più condizionabile, è considerata particolarmente esposta a queste tentazioni della magia. In più, tutto quello che potevano essere competenze specifiche delle donne, come per esempio l'arte della levatrice, come per esempio la capacità di guarire attraverso l'uso di erbe, di sostanze anche vegetali, naturali e legate all'attività di cuoca, per esempio. E tutte altre componenti di questo genere fanno sì che si concentri la persecuzione proprio sulla figura femminile. E a ciò non aiutava certo il fatto che le donne fossero anche isteriche, quindi anche questo connotato negativo della parola isterica, proprio per identificare un momento irrazionale che però poco ha a che vedere, insomma, con con irrazionalità o col demonio, però era molto facile far scambiare probabilmente questo per un attacco del demonio, comunque un'invasione sì. dello spirito demoniaco. Certo, certo, è così, veniva strumentalizzato, o anche, per carità, io non voglio dire che ci fosse esclusivamente una strumentalizzazione in malafede, probabilmente molti degli inquisitori saranno stati anche convintissimi di fare il bene della collettività. Adesso io non voglio entrare nel merito in questioni religiose che esulano tra l'altro dalle certo. mie competenze specifiche, ma sicuramente tutti questi elementi si combinavano insieme e quindi la figura della strega diventava il massimo della perversione. E poi ovviamente era un obiettivo facilmente individuabile, facilmente da punire in piazza, possibilmente con un rogo, in maniera tale da poter lasciare un esempio alla collettività. Quindi insomma il messaggio poi nel tempo è stato abbastanza chiaro. Letizia, purtroppo come sai il tempo in radio è effettivamente tiranno e sembra correre più velocemente, soprattutto quando si parla di cose estremamente interessanti. E prima di salutarci mi chiedevo se avessi un saluto oppure volessi aggiungere qualcosa, un messaggio magari di chiusura per i nostri ascoltatori. Ma io no, io intanto ringrazio naturalmente per l'ospitalità e ringrazio tutti quanti e quante hanno voluto ascoltare. E poi voglio ricordare che questo libro è, come molti altri miei, è edito da Supernova, che è una casa editrice veneziana attiva da una ventina d'anni, in particolare all'inizio per la poesia, ma poi si è aperta molto a tutta una serie di altre tematiche, e che appunto ha sempre ospitato una buona parte dei miei lavori, altri li ho fatti con altre case editrici, per esempio quello che ricordavate prima, Femminilità Virile, uh-huh. è di Punto a Capo di Novi Ligure, ma in particolare l'ospitalità l'ho avuta appunto da Supernova, e sono felice di questo fatto, perché è una casa veneziana, una casa che però ha echi mondiali, e quindi una cosa che mi fa piacere. Beh, visto che tu non hai un saluto particolare, sono a Supernova, che è questa casa editrice veneziana, lo chiedo io a te, quindi, di salutarmi la mia città natale. Quindi, allora con piacere. Beh, allora salutatevi in veneziano, dai, perché il veneziano è lingua insomma da secoli, quindi magari un passaggio qui in quel di Bruxelles, un saluto alla veneziana. Devo farlo io? Ho il nostro Giorgio, no, insomma. Lui è meglio, perché io sono nata a Venezia e vissuta a Venezia, ma tutta di famiglia toscana, quindi purtroppo il veneziano lo capisco molto bene, ma lo parlo male. Ma neanche a me parlo bene, perché il mio sarebbe un venezian campagnolo, però non importa, va bene lo stesso. Ma questo è stato un bel saluto, da veneziano e non da campagnolo. Grazie infinita e ciao vostro, signora Letizia. Ciao vostro. Grazie. Allora Letizia, noi ti ringraziamo, ricordiamo ai nostri ascoltatori La verità e il mito, Trittico Muliebre, premessa di Tiziana Agostini, edito da Supernova, e ricordiamo anche che Letizia ha un suo sito personale, che è digilander.libero.it /Letizia, quindi insomma la troverete. Letizia o SL, insomma mi è rimasta appesa in gola, sì. Letizia, e quindi invitiamo tutti coloro i quali sono all'ascolto insomma di prendere visione del sito, perché effettivamente ci sono cose che vale la pena riportare a galla, perché è dal passato che possiamo guardare con più fiducia anche al futuro. Letizia, in bocca al lupo per tutto, restiamo in contatto, e come sai qui troverai degli amici pronti a leggerti, ad ascoltarti e a farti conoscere a Bruxelles e a chiunque poi ci ascolta nel nostro blog. Grazie e buon lavoro a tutti e a tutte. Grazie. Notte, grazie. Ciao. Grazie, ciao, ciao. Braxas, le prangolo. Grazie, ma come hai intuito? Perché fa parte... Perché vabbè, lo spieghi dopo, perché io devo veramente sbrigarmi. D'altra parte, se non ci fossero le streghe, certo non avrei potuto, le streghe mi hanno aiutato. Esattamente, ma io non starò a parlare di streghe, ma starò parlando un po' di, non so, visioni di fine di mondo. più o meno qualcosa del genere. Mi dispiace che ho portato, cioè, sembra una cosa un po' cupa, però siccome la mia ultima lettura era in tema, allora pensavo di portarvelo. Prima di tutto un'osservazione che a me sembrava un po' strano, cioè no, strano e non strano allo stesso punto, che praticamente la Seconda Guerra Mondiale è tipo una cioè non so, è un punto di cesura, se possiamo dirlo così. Cioè prima anche le visioni di fine mondo sono un po' più benigne, un po' più innocui, e dopo invece proprio appare questa, cioè proprio il finimondo, cioè la fine proprio della civiltà, la fine il bruciore di un paesaggio che praticamente sparisce completamente. E questo viene ovviamente dalla esperienza della bomba atomica, non da altro. E questa esperienza è descritta per esempio molto bene da uno scrittore giapponese, ovviamente, Masuji Ibuse. Il titolo del libro è La pioggia nera, che è un libro fantastico semplicemente perché racconta dei fatti in modo quasi senza emozione, ma in un modo che proprio ti fanno presente questo avvenimento in modo allucinante. Ed è proprio, dobbiamo capire che in quel momento la bomba atomica, in senso letterale e figurativo, è caduto dal cielo sereno, perché nessuno, nemmeno gli aggressori, sapevano come funzionasse che effetti avesse, specialmente a lungo termine. E invece questa gente vive il fuoco, il bruciore, la distruzione di una città completa e dei suoi dintorni, dopo invece a lungo termine la distruzione delle famiglie, la malattia delle irradiazioni, eccetera eccetera. È un'esperienza più che drammatica, che definisce anche un po' le visioni di dopo, nel senso che tutti, specialmente gli artisti, comunque continuano ad ammonirci di non andare per quella strada, diciamo, di non andare verso questo tipo di istituzione, che necessariamente vuol dire una fine della civiltà se usato massivamente. E quindi, per esempio, io vi menziono sempre uno dei miei preferiti, che è Robert Merle, che abbiamo scoperto che in francese è un po' insopportabile, però nella traduzione ungherese è proprio bella. Non lo so se esiste una traduzione italiana, dobbiamo trovarlo e provarci. In questo libro, che si intitola Maléville, si tratta di un gruppo di persone che sopravvive in un castello rimesso a posto in modo un po' alla vecchia, cioè con ponti levatoi, con gli animali in stalle di pietra, eccetera eccetera. C'è un gruppo di uomini sopravvive ad un cataclisma, e sopravvivendo comunque si ritrovano in un mondo senza elettricità, senza tutte le comodità della civiltà, se possiamo dirlo così, e quindi si devono costruire una vita proprio da zero, cioè non da zero, perché hanno un bel castello e hanno un paio di animali, ma quasi da zero. Cioè si costruisce proprio una comunità, una microdemocrazia, se possiamo dirlo così, e che poi si scontra dopo con una microautocrazia di sopravvissuti in una città vicina. Vi raccomando, è molto interessante, però provate la traduzione italiana. E poi vi menziono questo, il motivo per cui ho cominciato a parlarvi di questa cosa, che è il libro Sulla strada di Cormac McCarthy, che ha vinto il premio Pulitzer nel 2007, e di cui hanno tratto anche un film ovviamente, con Viggo Mortensen. E comunque là si tratta, anche là non sappiamo la causa della catastrofe, sappiamo semplicemente che il mondo è coperto da ceneri, tutto è bruciato, e la gente già da 9 anni sta vagando in questo mondo cercando di sopravvivere. Alcuni prendono la strada del cannibalismo e della crudeltà, perché cioè non c'è niente, non ci sono piante, non c'è niente. Che cosa mangi? Mangi le riserve, quello che trovi, vecchie conserve, cioè in questo paesaggio c'è un padre e suo figlio che stanno camminando cercando di andare verso sud, dove farebbe più caldo e loro potrebbero magari sopravvivere meglio. E loro sono dell'altra frazione, dei buoni, fra virgolette, quelli che non mangiano persone, quelli che vogliono portare un elemento di bontà continuare a portarlo in questo mondo, ma comunque è molto difficile anche far valere questa bontà, perché quando tu incontri qualcuno, quello che vale è il terrore e la protezione della tua vita e quello di tuo figlio. E quindi ad un certo punto il bambino infatti dice: noi vogliamo essere buoni, ma infatti alla fine non aiutiamo nessuno. Tu mi prometti sempre che li aiutiamo, ma alla fine non aiutiamo nessuno. Ed è proprio, cioè, è un libro da un lato terribile, perché ti fa vedere delle cose che, cioè, proprio senza abbellimenti, proprio ti mettono una situazione di fronte agli occhi, senza commenti, e poi tu te lo gestisci come riesci. Quindi vi raccomando proprio vivamente questo libro, semplicemente per le riflessioni che poi desta, e anche per la figura di questo bambino che proprio è il vero portatore del fuoco e della bontà in questo mondo. E siccome devo terminare, io termino. È così, ex abrupto, perché lo so che praticamente finché diciamo ciao ciao a tutti già dobbiamo scappare. Vabbè, ci lasci con Homo Homini Lupus. Homo Homini Lupus, ma anche non lupus. Beh, filosoficamente il concetto è passato, quindi possiamo riconoscerlo anche ad Imola. Tutto sommato. Vabbè, no, è passato il concetto, però insomma non c'è speranza. Magari no, la speranza è il figlio, te l'ho detto, l'hai ascoltato. Sì, ho ascoltato, però... Non ci spiega quello che dice Rita Levi Montalcini, che dice che l'uomo è dotato di egoismo, e questo è quel baco, quel buco, il baco nel cervello dell'uomo che fa sì che prima o poi si autosterminerà. Qualcuno la definiva mano invisibile, altri la chiamano egoismo, il concetto non cambia, no. Nuovamente. Imola, come al solito, suggerimenti veramente pertinenti e soprattutto molto molto attuali. Io ringrazio Daniele in regia, saluto il nostro direttore che è qui ugualmente in regia, saluto quindi Roberto Giava, e saluto quindi sia Imola che Giorgio, salutiamo ancora la Letizia Lanza che veramente ci ha fatto piacere risentire. E ringraziamo infinitamente la nostra Mary D. E ci risentiamo, insomma, da questi microfoni martedì prossimo con Brussellando Radio Alma. Ciao!